Cirri. Veleggiava un giorno una famiglia di cirri. Narrava che la prosapia della sapienza riposa a capobasso su pianure e solo per vive fantasie altissima sé proietta in freddi cieli nei quali troppo goffi volatili argomentano si salga per ambizione, per dura volontà, per sgarro, ignorando esse le gallinette che si accirri per grazia, sapienti ove non lo si vuole, eccelsi solo quando sbranati s'ignora fatto d'esser salvi. Così papiglionace con acqua le più beate nella libertà, candida la loro levità, cirri, bianche farfalle la cui velocità pare lentezza, la cui corsa si mostra moto immobile. Il freddo che patiscono i capelli quando manca la testa deve essere parente della calvizie che rischiate, timidi cirri che di nulla velate il cielo vegliandolo dall'alto questo cenacolo, rimemorandovi penso che innocui non minacciate mai metastasi e piume d'uno spiumarsi senza suono come campane assente l'aria.